Una giornata speciale qui in Piazza Maggiore a Bologna, l'apertura di un nuovo locale, nuovo in tutti i sensi, perché diciamo che la tradizione c'è, ma c'è anche tanto di nuovo. Ne parliamo con l'artefice, che è Giovanni Fabia. Ciao, grazie dei complimenti, perché non è facile coniugare nuovo e antico, più che vecchio antico. E noi volevamo onorare la regola dell'arte per quanto riguarda il caffè, per quanto riguarda la ristorazione, ma essere anche un po' leggeri, giovanili, scanzonati, perché poi bisogna divertirsi. I locali nascono per far stare insieme le persone e questo è lo spirito che abbiamo seguito in questi mesi, aggiungendoci anche una responsabilità sociale e un'attenzione all'ambiente. Coniugare cultura, territorio, è un atto d'amore verso Bologna, la città che mi ha dato tutto e a cui devo tutto, sostenibilità e cultura. Questi erano i tre assi su cui noi abbiamo costruito la casa. Sì, quindi un'offerta che va dalla mattina fino alla notte, quindi dalle colazioni fino alle cene, passando per il territorio, come dicevi, quindi fornitori locali storici come Maiani, come Fabbri, come Terzi del caffè. Terzi, abbiamo il pasticcere Enni, pasticcere Poretto, che ha fatto il panettone più innovativo del mondo. E abbiamo la birra del Reno, birra agricola fatta con l'acqua della fonte del Reno, abbiamo ovviamente l'acqua di Bologna, Serelia. Abbiamo investito su questo, sulle associazioni culturali del territorio, sulle eccellenze del territorio. E abbiamo i frutti antichi dell'azienda agricola Cabignami di Savigno. Abbiamo cercato di mettere insieme tutto. Non mi aspettavo questo risultato, perché è veramente sopra le aspettative, sia in termini di riscontri del pubblico, sia anche in standard miei, perché ero molto preoccupato all'inizio quando mi sono lanciato in questa sfida. È una sfida difficile a livello economico, ma anche sotto un profilo commerciale e aziendale. E invece il posto ha preso la sua identità, ha preso la sua forma, si è fatto da solo, con gli incontri casuali, con le idee casuali, ed è la cosa più divertente di tutte. E questo è probabilmente anche merito di chi è riuscito a mettere le anime insieme per creare un qualcosa ad hoc per questa piazza, che sicuramente merita un locale di questo tipo, lo merita la clientela, che in realtà sarà di tutti i tipi, perché diciamo che si preannuncia alla portata dallo studente al turista al notaio o chiunque frequenti la piazza. Questo era lo spirito, un luogo popolare, più alla mano al piano terra, più facile con i tavoli alti, con qualità. La qualità ha un costo diverso oggi, se rispetti tutte le regole del lavoro, se hai dei fornitori del territorio, e quindi una ristorazione di qualità a un prezzo accessibile, ma un prezzo per poter bere e mangiare ancora più accessibile al piano terra, più veloce, più dinamico, più giovanile, più conviviale. E che insomma in qualche modo va a rispondere a qualcosa che ancora non c'era. Sì, non c'era, e sono contento, perché essere qua con te adesso, guardare queste quattro vetrine, vedere il Nettuno, vedere Palazzo del Podestà, vedere Piazzetta dell'Orologio, Via D'Azeglio, con una luminaria di Lucio Dalla che abbiamo preso all'asta per sostenere l'oncologia di Sant'Orsola, affissa dentro il locale. E è un grande cordo di luce in questa via e anche in questo locale. Sì, perché una delle tre parole che sostengono questo locale, sì sostenibilità, sì territorio, ma anche cultura. In qualche modo avete già fatto molto ospitando un artista bolognese per gli interni, ospitando Piazza Grande per la scelta appunto di alcuni degli arredamenti, modernariato se così si può dire, ma loro fanno anche molto di più, e anche ospitando tutta quella che è la cultura gastronomica. Sì, la Onlus Piazza Grande ci ha aiutato molto, e quando sono entrato nel loro magazzino, io che sono appassionato di antiquariato e di modernariato, ero come un bambino in un negozio di giocattoli, e ho trovato molte idee che abbiamo inserito nel locale. Lo scultore, allora bronzo, rame, legno, pietra, zamboni, è forse il più grande artista che abbiamo a Bologna, storico. L'associazione Succede Solo a Bologna, dovevamo decidere come raccontare Bologna, abbiamo scelto loro con delle vignette, giocando, perché Bologna è questo. Dobbiamo portare anche un po' un vento di serenità, piano piano. Grazie Giovanni, insomma cerchiamo di trarne insegnamento e anche beneficio e anche gusto. Grazie a voi.